Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Pare che il dandismo, movimento culturale ed estetico nato alla fine dell'Ottocento, stia tornando di moda. Ma chi sono oggi i nuovi dandy? Lo spiega Giuseppe Scaraffia sulle pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, in edicola oggi. La crisi sta inaspettatamente rigenerando un mito elegante, quello del dandy. In un periodo di insicurezza come questo, in cui il futuro ci appare incerto, il culto per il passato del dandy, inattuale per eccellenza, non può non affascinare. Chi si sente dandy oggi? Come nel passato, tutti gli insoddisfatti di genio, coloro che si sentono limitati o traditi dalla loro definizione sociale, i delusi dalle speranze rivoluzionarie e i nostalgici di quelle reazionarie. Sono un'elite non riconosciuta, silenziosamente eversiva, metodicamente eccentrica e intenzionata a non confondersi con la borghesia né con la bohème artistica. Sono coloro che si rifiutano di soggiacere ai miti della società di massa e preferiscono la solitudine alla resa alla banalità diffusa. Ora che i cosiddetti eleganti hanno abdicato alla cravatta, lui può inalberarla tranquillamente in qualsiasi occasione, anche in campagna o senza giacca. Naturalmente dovrà essere sottile e sfoderata, stretta da un nodo aderente al bottone del colletto, che potrà essere solo floscio, a punte arrotondate come quello di D'Annunzio o allungate come quello di Cocteau. Se ci deve essere la cintura, sia una di quelle coloratissime di plastica che evitano striptease agli aeroporti o, se si preferiscono, treni e navi, di un cuoio esausto, marezzato dagli anni. Per i suoi completi il dandy preferisce il neutro, grigio, beige, nero, bianco, sapendo come Proust che nulla è più frivolo della rinuncia consapevole al colore. Ma per niente al mondo si farebbe imbottire le spalle delle giacche. Il taglio che sceglierà, frutto di una lunga ricerca, sarà del tutto indipendente dalla moda. Baudelaire, ad esempio, aveva adottato un nero profumato di zolfo e incenso in un periodo in cui andavano le tinte vivaci. L'essenziale, come ammonisce Balzac, è che gli indumenti non abbiano mai un'aria troppo nuova. Permane sempre la possibilità del dandismo démodé, adottata da Wilde all'apice del suo successo e da Proust al vertice della sua clausura. Possono allora rispuntare i panciotti a doppio petto e persino le ghette, purché portati con sublime indifferenza come fossero una t-shirt. Se non si possono evitare le calze, che siano almeno eccentricamente a righe o di tinte squillanti, ma tenui. In alternativa, una saariana chiara, come quella celebre di Gozzano, abbottonata fino al collo. Sotto al vestito si possono portare le scarpe di corda, possibilmente come quelle di Modigliani, con i lacci intorno alla caviglia. Meglio evitare le friulane ricamate che fanno tanto briatore. Possibili i sandali, ma anche quelli fatti dal calzolaio o quelli greci. Inarrivabile il modello in nappa, con cinturino e occhielli ideato dal futurista Taillà. Bisogna invece rinunciare al Panama, troppo diffuso, in favore di leggerissimo cappello di paglia di Firenze di tinta naturale. I gemelli, sempre vintage degli anni 20 e 30, fanno parte dell'indispensabile rituale di rallentamento con cui il dandy resiste all'incalzare frettoloso della modernità. Se proprio si vuole un anello che sia di scavo, come quello etrusco di Giono, o semplice e bizzarro come quelli che Montesquieu portava anche sopra i guanti. In mancanza di un'epidemia che li giustifichi, i guanti traforati di cotone vanno portati solo in auto, in bici, in moto o a cavallo. Gli occhiali il dandy li trova, metallici di tartaruga o bachelite, solo nei mercatini d'antiquariato. Incontrerà gli amici in luoghi profumati di passato, a Roma il Caffè Tadolini, un ex atelier tra una foresta di statue bianche o nel Liberty Hotel Locarno. A Parigi l'intatto Café de la Paix, una reliquia del Secondo Impero, o Angelina, il miglior cioccolato di Parigi. A Londra il Café Royal o il Club Ateneum. A Milano la pasticceria Taveggia o il Cova. A Torino la pasticceria Fiorio, frequentata da Cavour, o il Caffè Mulassano, prediletto da Gozzano. Ma essere dandy non è solo una questione di gusto, anzi è soprattutto questione di pensiero, come ci ricorda la stimolante Filosofia del dandismo di Daniel Schiffer, in uscita il 9 giugno da Excelsior 1881, grazie a due eleganti curatori, Massimiliano Mocchia di Coggiola e l'editore Luca Federico Garavaglia. Certo, il dandy è ostile alla speculazione cerebrale. Stendhal definiva le teorie dei filosofi tedeschi sapienti castelli di carta. Ma un'analoga sfiducia ci spinge in questi anni a ricavare la filosofia dal comportamento di alcune persone o categorie di persone, e il dandy, l'unico in grado di tradurre l'etica in estetica, è un soggetto stimolante per un'umanità priva di modelli, per non parlare della cura e della consapevolezza con cui si vestivano pensatori come Kierkegaard o Camus. Nato dalla morte di Dio e dall'avvento della società di massa, questa figura apparentemente superficiale si oppone alla banalizzazione dell'esistenza con una coerenza inedita. Insomma, come diceva Baudelaire, che cos'è il dandy? Eterna superiorità del dandy. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Giuseppe Scaraffia dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Franco Loi, poeta, scrittore e saggista, nasce a Genova nel 1930, ma già a 7 anni è costretto a cambiare città quando il padre viene trasferito a Milano. Un distacco doloroso, ma anche ricco di nuove esperienze, come racconta lo stesso Loi nella sua autobiografia. Mio padre fu trasferito a Milano nella primavera del 1937. Gli era stato proposto di diventare direttore dello scalo merci di Milano Smistamento. In realtà si trattava di dirigere 160 uomini ai capannoni dello smistamento, sotto il cavalcavia di Segrate, a Tregarezzo, vicino all'idroscalo. Noi non partimmo subito, ma solo quando mio padre scrisse che aveva trovato casa. Mia madre e io arrivammo in stazione centrale in un giorno d'autunno. Mio padre aveva affittato una camera ammobiliata in via Cardano. Era una casa di ringhiera, con una grande corte che, come si usava, ospitava al centro officine di artigiani, un gommista e un colorificio. In fondo a via Cardano, dalla parte opposta di via General Fara, scorreva il Seveso, di fianco a quella che ancora oggi si chiama via Melchiorre Gioia. La padrona di casa era una vecchia sugli 85 anni. Non ricordo il nome. Suo figlio si chiamava Ernesto. Aveva 60 anni e faceva il calzolaio in via Fate Bene Sorelle, all'incrocio con il Seveso di via San Marco. Veniva ogni settimana a casa ubriaco e sua madre lo picchiava con un lungo pettine. Lo faceva cadere in ginocchio e poi, stando seduta, lo batteva in testa e sulle spalle. Il mio approccio a Milano non è stato dei più felici. C'era una nebbia che non si vedeva un palmo di naso. Prima ho l'immagine di me seduto su un materasso. Vicina la gabbia con il canarino, che mi pareva l'unico amico in quella città sconosciuta, fra tutta quella gente che mi passava accanto trafelata, il rumore dei treni, mio padre che s'era perduto nel buio della stazione e mia madre che si guardava attorno con ansia. Poi mio padre tornò dal deposito bagagli con un facchino che portasse la nostra roba e quando uscimmo dalla stazione andammo in una latteria in via Vitruvio. Fummo subito ingoiati dal nebbione. Dirò una cosa strana. Più che una città, Milano, in confronto a Genova, mi sembrava un paese. Forse perché Genova aveva lo spazio infinito del mare, il porto, i grandi palazzi, il teatro delle colline e forse anche per quel suo adagiarsi in lungo, da pegli a nervi. In via Cardano rimasi fino a primavera, poi ci trasferimmo in piazza Bottini, di fianco alla stazione di Lambrate. Le nostre finestre al primo piano erano a ridosso del muro che sosteneva il terrapiano della ferrovia. La sera dal mio letto vedevo le ombre e le luci riflesse dai finestrini dei treni sulle pareti della mia camera. Certe volte, di notte, mi svegliavo di colpo e mi spaventavo. Ho bellissime immagini di quel periodo. Andavo a scuola costeggiando la ferrovia e in primavera l'erba brulicava di farfalle e vespe, tra i colori luminosi dei fiori, e anche Viale Rimembranze mi piaceva, con tutte quelle targhe sugli alberi in ricordo dei caduti della Grande Guerra e il gran sciamare degli uccelli, in particolare rondini, nei giorni di primavera. Ma anche Piazza Bottini non durò a lungo. Poco tempo dopo, mio padre propose di traslocare a Limito, frazione di Pioltello, per essere più vicino al posto di lavoro. Non ci siamo fermati molto a Limito, forse 8 mesi. Eppure a quell'età, tra gli 8 e i 9 anni, sono stati molti gli avvenimenti e le piccole scoperte che hanno influito sulla mia formazione. Malattie, piccoli o grandi spaventi, Abitava al primo piano di quella nostra casa una signora mantovana che aveva un figlio di circa 20 o 25 anni. Si chiamava Danilo. Questo giovane non mi piaceva molto, però mi prestava spesso libri e giornalini. Un giorno mi invitò a casa sua per darmi un album di Flash Gordon. Mi prese sulle ginocchia e cominciò a carezzarmi. Volevo scappare, ma lui mi teneva saldamente sulle ginocchia e a un certo punto mi disse di toccarlo sui genitali. Ero disgustato e volevo scappare, ma lui mi tratteneva e mi sentivo come paralizzato dalla paura. Ero terrorizzato. Mi prese una mano e se la mise tra i calzoni. Quando sentii, insieme con quella cosa viscida, il suo abbandono e l'allentamento della presa, gli diedi uno spintone. La sua seggiola si rovesciò all'indietro e io riuscii in un balzo a raggiungere la porta. Scappai in corte e poi per strada. Correvo e correvo, sempre con quel senso di nausea e di paura. Avevo scoperto nel modo peggiore la foglia umana e la violenza. Non parlai mai a nessuno di quell'esperienza. Mi rimase a lungo un senso di umiliazione e di timore. Quel viscido contatto era per me inspiegabile. Cosa voleva da me quel giovane? Cosa c'era di malato in lui? Un pomeriggio andai giù in corte per chiamare Bruno, che abitava proprio all'inizio della corte, in una delle abitazioni con la scaletta d'accesso. Entrai in casa e vidi un'altra scena per me, bambino, molto strana. La sorella Sonia era sdraiata sul pavimento con le mutandine abbassate e la gonna fin sotto il mento, e sopra di lei c'era un giovane che non conoscevo. Credevo giocassero a fare la lotta. «Dov'è Bruno?» chiesi. Ma lei si alzò di scatto, tutta arrabbiata, e rovesciando il giovane amico sul pavimento, mi cacciò di casa. Più tardi mi venne a cercare e mi disse di non dirlo a nessuno, nemmeno a Bruno. Sonia non era più arrabbiata, anzi era piuttosto gentile. Io però non capivo quale fosse il segreto e ne parlai con Bruno, che mi disse che sua sorella era matta. Dimenticai quei due episodi, ma forse qualcosa rimase nel mio inconscio. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'autobiografia di Franco Loi, Da bambino il cielo, Garzanti Editore, 382 pagine, libro più DVD, 29,50 euro.